Romanze d'amor, d'amor, incanto del cuor, del cuor, un sogno, un sospiro sarà la primavera. Stringendoti a me così, è bello con te sognare, cantandoti ognor romanze d'amore. Stanotte o mai più la realtà sei. Cantandoti ognor romanze d'amor, stanotte mai più.